Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti alla nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Dinosauri, film del 2000 ed è considerato il 39esimo classico Disney. Il film è stato realizzato in CGI con l'ausilio di sfondi con riprese dal vivo, realizzate fra Venezuela, Florida, Hawaii, California. Il protagonista è un iguanodonte che viene abbandonato e si ritrova in un'isola di lemuri, che lo adottano. L'iguanodonte, che si chiama Aladar, cresce con questi lemuri, ma un giorno la loro vita verrà sconvolta dall'arrivo di un meteorite, che distruggerà la loro casa. La famiglia è costretta a fuggire, ma ritrovano un altro gruppo di superstiti, dinosauri, e decidono insieme a loro di andare alla ricerca della famosa Terra dei Covi, ovvero una zona che non è stata colpita dal meteorite. Il loro piano però verrà ostacolato dagli attacchi di altri gruppi di dinosauri, che costringeranno quindi il gruppo del protagonista a subire grosse perdite e a rallentare il loro viaggio. Ma alla fine del film riusciranno a raggiungere i terreni di cova e a iniziare una nuova generazione di esseri viventi. Il punto forte del film non è la trama, dato che è stata considerata molto simile a quella alla ricerca della Valle Incantata, film di Don Bluth che era stato realizzato quasi 10 anni prima. Ma il punto forte che ha fatto incassare molti soldi a questo film è stato l'introduzione della CGI. Infatti al periodo andava molto di moda la CGI, soprattutto introdotta dagli studi Pixar, che verranno poi comprati dalla Disney nel 2006. Questo primo film in CGI fatto dalla Disney, che è comunque una sperimentazione, è stato creato grazie all'ausilio di vari studios che si sono collusi insieme, dando luogo ad un nuovo studios che è chiamato la DreamQuest Images. Il film comunque ha avuto un discreto successo e ha coperto in generale tutte le spese che sono state fatte dalla Disney per realizzarlo. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.